per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Oh, di positivo c'è che nello studio siamo rientrati nonostante le feste, i nostri 4 metri in 2 e i 250 kg sono ancora contenuti all'interno degli studi di Via Gian Bologna. Perfetto Elisa, buon anno, buon 2016, bentornata. Ma grazie William, bentornati anche a voi amici ascoltatori, amiche ascoltatrici. Questi ovviamente sono sempre i 103.1 e lo Special Twice entra col 2016. Entra, oddio, ci proviamo, ci proviamo a entrare, siamo un po' stretti, tante le novità del 2016 a partire dalla nostra taglia che è aumentata, ma è il bello della radio, voglio dire, non si vede che siamo passati dal bottone del jeans alla tuta e per me i leggings, quindi siamo tutti molto più comodi. Però ti definisce, dai. Ma sì, c'è cioè una certa struttura, comunque rimane sempre nello Special Toys, anche se non si direbbe. Special size. È un special size, oversize, XXL per voi, ovviamente musica e intrattenimento in questa forma dell'acqua di grandissima elevatura oggi e ovviamente grandi, pensa, grandi spazi. Dimmi, pensa Willy, che addirittura non solo siamo riusciti io e te ad entrare, ma abbiamo anche un ospite. Infatti stavo proprio per dire che nonostante la nostra ampiezza siamo riusciti a far entrare anche Rossella Consoli, che salutiamo. Ciao a tutti. Bene, buongiorno. Benvenuta, ben arrivata al Breakfast Club, te fortunatamente. Al Breakfast Club? Sì, certo, benvenuta, bentornata allo Special Twice, ovviamente la mia lucidità già comincia a fare scherzi, però come ben sapete dopo le feste un refuso è il minimo. Detto ciò, lei subito ci ha messo a nostro agio dicendo è come essere in mezzo a degli alberi. Infatti sì, è stato molto naturale questa esatto, cosa, proprio a nostro agio tra due piccole insomma statuette così. Esatto, così due bronzi, bene, un po' sbronzi dopo le feste, però insomma intanto noi siamo partiti, poi vi racconteremo ovviamente perché Rossella è qui con noi, ci parlerà di rivista Una Specie e intanto possiamo, una specie di rivista, ma non infatti chiederemo bene i dettagli al riguardo. E intanto voglio dire, facciamo sciogliere un po', vuoi mettere un po' di natiche? Musica, noi fuori onda cominciamo a chiacchierare così per vedere, perché è una sorpresa per me Rossella, intanto Rossella Consoli sui 103.1. È il tuo esordio in radio? Sì, è la prima volta. Che bellezza, pensa che onore. E poi pensa che bello, non mi sono neanche dovuta scrivere il suo nome sulla mano, perché di solito non mi ricordo mai i nomi, invece sai, Rossella è un nome che mi ricordo, Consoli la cantante, quindi sono andata liscia come l'olio. Perfetto, vai con la musica, ci sentiamo fra pochissimo, Get With It, Billy Parker. Do adesso è facile prendermi in giro, adesso rientrando in diretta. Ricordo lo special Twice, ogni venerdì dalle 11.30, anzi dalle 10.30 alle 11.30, perché questa confusione, perché ritorna anche Jazz Live, caro Elisa. Beh, ovviamente, ma in realtà lo facciamo per vedere se state attenti, perché giustamente lo special Twice devi essere sempre lì concentrato, non puoi perderti nulla. E quindi giustamente abbiamo detto 10.30, 11.30, poi abbiamo il Jazz Live, insieme a Alfredo Pasquali. Presentazione, tra l'altro, della seconda parte di stagione, inizio 2016, col Torrione Jazz Festival. Grandissimo Torrione. Noi, ovviamente, e Francesco Bettini e Eleonora Sole Travagli per il Torrione Jazz, il jazz club prestigiosissimo della città estense. Noi continuiamo qui sui 103.1 con lo Special Twice, e diciamo così, refuso sul refuso, tra l'altro, perché è facile, ovviamente, confondersi. Quando fai 8.000, è ovvio. E poi, di quante rubriche ci sono all'interno del Breakfast Club? Ma infatti, ma in generale, insomma, palinsesto di Radio Città Fujiko, veramente denso, di cui ovviamente William Piana, cioè redattore culturale, vuoi non dargli quelle 15, 25, 84? quante ne abbiamo? Parliamo di letteratura, parliamo di teatro, parliamo di jazz, parliamo anche del cinema indipendente. Arte, con Elisa Iacobucci del cinema indipendente, quindi è confondersi un attimo. È un attimo. Ma noi sappiamo che la nostra redattrice della rivista Una Specie ha anche lei un sacco di rubriche. Intanto possiamo iniziare insieme a Rossella Consoli chiacchierando sulla nascita di questa rivista, come è nata l'idea, come è venuta a galla, insomma, questa pubblicazione. Ciao Radio Città Fujiko, sono Rossella. Allora, rivista Una Specie. È una rivista online, un periodico di informazione sulle arti indipendenti, che è partito dall'essere un periodico di letteratura e poesia, e in questi due anni è cresciuto fino ad aumentare le sue sezioni. Sì, infatti mi diceva addirittura che adesso conta quasi 40 collaboratori. Esattamente, 40 Pensa. Collaboratori, sì sì. Oltre alla sezione di letteratura si è aggiunta quella del cinema e della musica, oltre a una sezione ludica che si chiama Le Vanvere. Che tra l'altro è veramente divertente. Poi c'è anche, ovviamente, non solo la parte curata della letteratura, della musica, del cinema, ma anche una parte grafica, che noi dello Special Twice siamo partiti agli esordi con andare a spulciare tutte le copertine dei vinili, dei dischi, quindi fare una prosopopea su tutta la parte proprio dell'immagine. E quindi ho notato subito che il rivista Una Specie, dal sito c'è una parte dedicata alla cura del disegno e dell'illustrazione veramente veramente notevole. Esattamente, infatti da settembre la rivista ha cambiato veste grafica, si è arricchita anche di queste sezioni che ti dicevo. Si è aggiunta anche la Luna di Ariosto, che è la parte di, diciamo, in cui i lettori possono mandare i loro inediti, ma anche gli scrittori e i traduttori. Molto bene, insomma, William, qui tocchiamo tutto, abbiamo visto? Sì, infatti sento molte cose in comune. Tu di cosa ti occupi nello specifico, Rossella? Di letteratura. Letteratura e recensioni, quindi, oppure anche articoli, diciamo così, a parte proprio di pubblicazioni. Diciamo che ogni sezione si articola in recensione, argomento culturale e poi argomento di attualità. Quindi scrivo di queste tre cose. Beh, diciamo che allora è un impegno veramente importante, e soprattutto una pubblicazione così richiede anche molto tempo e un certo impegno. Sì, assolutamente. Ma soprattutto in realtà interesse, passione. Infatti, comunque, rivista Una Specie nasce da questo, dall'interesse del portare il libro e poi più successivamente le arti indipendenti fuori dai loro spazi. È una rivista divulgativa che nasce da una passione comune di amici, di ragazzi. Infatti è una cosa molto vicina anche a noi. Alla fine queste arti indipendenti hanno bisogno di avere una voce forte, e quindi non solo a livello radiofonico ma proprio a livello, certo, anche visivo, perché il libro non muore, è il lettore che lascia il libro morire. Quindi se ricuperiamo il lettore, poi i libri continueranno a vivere. Poi adesso è un momento un po' delicato per la letteratura, abbiamo vissuto il famoso caso Mondazzoli, no? Di, esatto, questa grande unione che mette in difficoltà le pubblicazioni indipendenti. dipendenti, e quindi uno sguardo particolare appunto a queste ultime, proprio perché probabilmente è da lì che nasce una qualità, diciamo, un po' più ricercata invece che un prodotto più popular, chiamiamolo così per usare un eufemismo, un prodotto più, diciamo, da bancarella, ecco, esatto, qualcosa sì, di distribuzione molto molto più ampia, ma che poi lascia scadere quello che è un aspetto di ricerca e, perché no, anche di grande passione. Qual è il tuo filone letterario preferito, se ce n'è uno? Ma diciamo che non ce n'è uno in particolare preferito, anche perché mano a mano che leggi, che esplori, saltano sempre fuori nuove sorprese, ed è questa anche la parte bella di stare in una redazione con altre persone con interessi diversi dai tuoi. Ti fanno condividere e scoprire cose che mai avresti pensato. Adesso faccio una domanda che la mettiamo subito a suo agio, eh. L'ultimo libro che hai letto? Allora, l'ultimo libro... o che hai recensito? L'ultimo libro che ho letto è stato Invisible Monster di Panwick. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Bene, perfetto. Beh. E si può leggere la recensione? Ancora no, ma perché diciamo che non è un libro propriamente indipendente, non è uscito esattamente da poco. Vabbè, ma ad esempio nella letteratura, col Breakfast Club, anche noi abbiamo una rubrica, il Voltiamo Pagina, è chiaro che capita di presentare anche qualcosa legato a una distribuzione, diciamo. L'importante poi è la qualità e la passione che trasmette e quello che a sua volta il prodotto ha comunicato. Quindi abbiamo detto letteratura, cinema, musica e tante altre realtà. A proposito di musica, Elisa, facciamo un altro stacchettino. Ma sì, dai, godiamoci un altro brano musicale, anche perché le cose da dire di questa rivista così ampia, visto che comunque 40 collaboratori non sono neanche facili da gestire. Beh, abbiamo cominciato da lei. Abbiamo cominciato da lei, esatto. Qui, insomma... E quindi mano a mano andremo a spacchettare, a scoprire cosa ci dà questa... In mezzo a questi due baobab. Esatto. Voi ovviamente restate con noi su 103.1. A fra poco. Sharing. Young Disciples è il primo disco in CD che ho acquistato nel 1990-91. Pensa un po'. Quanti anni fa stiamo parlando CD. Proprio. Ho la cassetta. Veramente. Ma non li dimostri. Diciamo che in mezzo a questi due giganti è anche la più giovane, pensa. Per cui, insomma, abbiamo completato veramente un quadro anagrafico perfetto. E poi hai visto, è talmente precisa che ha salutato due volte. Esatto, perché sì, sono Rossella. E poi sono Rossella. No, perfetto, è bravissima. È facile scambiare lo special toys per gli alcolisti anonimi, solo per questo, mica per altro. O per altri format anche. Esatto. Ma no, non facciamo confusione allora. A parte gli scherzi, abbiamo iniziato questa nuova edizione, quella del 2016, terza edizione dello Special Twice. Sì, è una specie di rivista, o rivista una specie, ma il gioco di parole è voluto anche. Direi di sì. Bene. A questo punto abbiamo iniziato con la letteratura, con le recensioni e anche con articoli che parlano di tutto ciò che è un filone letterario, in particolar modo con la passione della letteratura indipendente, e passiamo, diciamo così, a un aspetto più generale, no? Esatto, visto... anche perché comunque la rivista, come mi dicevi, nasce a gennaio del 2014, quindi siamo vicini al compleanno, come tra poco anticiperemo, però c'è anche ovviamente un'uscita online che ha una certa organizzazione in base alla parte della letteratura, della musica, come ci dicevi. Sì, diciamo che tra 40 collaboratori siamo distribuiti per competenze, ognuno ha il suo campo. Certo. Per lo più ci sono italianisti, antropologi, damsiani. A noi servirebbero degli italianisti, per ogni tanto. Qua una, guarda. Ah, bene, perfetto, ci può dare tante dritte per migliorare non solo la nostra dizione, ma anche qualche verbo che scappa ogni tanto, per quanto riguarda la grammatica, sintassi, si dice così, no? Giusto? Sì, c'è sintassi, però no, non mi sembra il tuo problema. Ah, tu dici che ho una chiacchiera facile? Meno male, l'importante sono i contenuti. Hai scelto il lavoro giusto. Oh, grazie, questo è un grande complimento. Leggerò la rivista Una Specie per poter ricambiare il complimento. Intanto io sono, diciamo così, molto anziano, molto dinosauro, e tra le rubriche c'è anche una particolare rubrica che conduco, che è una rassegna stampa di magazine e di riviste ogni lunedì. E se io volessi leggere anche la vostra rivista, cosa devo fare? Allora, devi collegarti a internet. Okay. E fin qui ce la faccio. Ok. Bene. Se vuoi leggere di letteratura, dovresti collegarti di venerdì, okay, perché gli articoli... È quello che volevo sapere. ...della sezione gramma escono di venerdì. Il sabato invece troveresti la musica. Ah, ok. Pentagramma. E la domenica il cinema. Ah, fotogramma. Cinema. Ah, tutto in gramma, sì. Vedi, grammatica, poi fotogramma, insomma abbiamo anche un etimo abbastanza importante che si può collegare tra le definizioni, e queste rubriche escono con questa scadenza appunto che tu hai appena elencato. Siete in 40 che collaborano regolarmente, e l'uscita è settimanale. Cosa possiamo aggiungere, Elisa, a questo punto? Allora, io sapevo che in realtà a livello proprio di rivista avete ovviamente la vostra sezione online, però vi piace dare spazio ovviamente a chi vuole dare il proprio contributo, non solo a livello di voglio pubblicare la mia poesia, voglio pubblicare il mio nuovo libro, oppure voglio dare la possibilità di far vedere e conoscere quelli che sono i miei disegni e quindi poterli pubblicare. Voi vi incontrate anche però fisicamente? Assolutamente sì, facciamo delle riunioni, cerchiamo di organizzarci, appunto essendo in così tanti è necessario ed è anche bello. Certo, ma so che fate proprio degli eventi con le persone che possono proprio partecipare, per esempio potete leggere dei libri, quindi condividere quelle che sono le vostre passioni. Sì, questo rientra sempre nel progetto di far uscire il libro e l'arte dai luoghi soliti, dalle biblioteche e così, quindi diciamo che organizziamo dei contest di scrittura creativa, oppure degli incontri con degli scrittori affiliati alla rivista, affezionati, così, o dei live painting, perché ad esempio da un annetto o più fanno parte della rivista anche degli illustratori che illustrano alcuni articoli della rivista. Beh, sì, quindi abbiamo... di cui parlavamo prima, che hanno dato questo aspetto davvero molto creativo. Un valore aggiunto. C'è lo stile Jacobucciano, sapevi tu, sì. Ed è uno stile bellissimo. Elisa si scatenava all'inizio dello Special Twice. Dicevo, fai un disegno che rappresenti un po' la rubrica o la puntata che vogliamo portare in frequenza. Lei faceva queste esplosioni di colori. Cioè, Elisa, calmati. Sì, infatti, diciamo che... Anzi, vogliamo ricordare la nostra pagina Facebook, così abbiamo i contatti di Rosario di Rivista Una Specie, in modo di così potete andare a spulciarvi tutti gli articoli e guardare anche voi, visto che così parlarne di quanto sono belli e creativi è un conto, ma vederli vi dà la possibilità di darci ragione, non dei pazzi, così siamo tranquilli. Beh, già siamo sulla buona strada, metà direi. Comunque fortunatamente Rossella ci sta aiutando in questa nostra diretta, è la prima del 2016. È la prima del 2016, quindi Rossella, wow, questo peso come lo porti? Sono onoratissima e spaventatissima. Onere e onore, esatto, al contempo, quindi. Lui è Seu Jorge, uno dei cantanti brasiliani da noi preferiti. Il brano è Carolina. Noi andiamo con la pubblicità e poi torniamo assieme. William Piana, Lisa Jacobucci e Rossella Consoli. Perfetto, ci siamo, a fra poco. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo, então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faço um pedido que eu irei realizar. Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Oi, ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina.